siccome noi proprio recentemente abbiamo fatto a Palermo una riunione europea per la creazione della rete dei lavoratori che operano nel campo della migrazione, e sono oltre 50.000 le persone che lavorano in tutti i settori che vanno dai ministeri alle prefetture ai centri di soccorso, i medici, gli infermieri, gli assistenti sociali, gli psicologi, insomma potrei continuare questa lista, vigili del fuoco, ce ne sono tantissimi, che operano in un campo così complicato, così difficile, politicamente così rilevante. In realtà abbiamo, diciamo, monitorato e continuiamo a monitorare il lavoro che fanno tante persone in questo campo. E il decreto sicurezza che cosa fa? Diciamo, interviene in uno dei pochi punti che in questo momento è sicuramente, diciamo, d'eccellenza di questo campo complicato, che è quello dei servizi cosiddetti SPRAR, cioè dei servizi che permettono l'inclusione di persone richiedenti asilo all'interno di comunità locali con piccoli insediamenti, cioè esattamente l'opposto di quello che vediamo tutti i giorni con questi terribili grandi campi, lager. Il decreto vuole di per sé annullare questa esperienza, forse perché è l'unica che funziona, e dietro questa ci sono decine di migliaia, oltre che naturalmente il problema di tutti i migranti, ci sono decine di migliaia di lavoratori, per la maggior parte già di per sé precari, che lavorano in cooperative, ma che danno tanto e tantissimo all'integrazione. Direi loro danno veramente più di tutti alla sicurezza, visto che ora va tanto di moda questa parola, la sicurezza di questo paese. Ed è drammatico che con un atto amministrativo si voglia cancellare una delle esperienze più importanti che ci sono in Italia e mandare sul lastrico decine di migliaia di persone che hanno un'esperienza incredibile in ogni campo e che hanno permesso il funzionamento di queste attività. Lo SPRAR è, diciamo, una delle invenzioni e delle eccellenze nate oltretutto in tempi non sospetti, persino era ai tempi della legge Bossi-Fini, che insomma tante colpe, però aveva messo questo tipo di meccanismo, e per la politica che questo governo porta avanti vuole cancellare anche questo tipo di esperienza. Noi sinceramente troviamo questo assolutamente folle, e abbiamo, diciamo, una voce nazionale di tutti coloro che ci lavorano e una voce anche europea, perché di questo ne stiamo parlando con tutti i sindacati europei, con tutti i lavoratori europei. Non siamo disponibili così semplicemente con un atto amministrativo, una circolare amministrativa, a pensare che si possa cancellare questa esperienza. E un'altra cosa che ti volevo chiedere è relativa, diciamo, a quali sarebbero gli effetti appunto della sostituzione prevista un po' implicitamente, un po' no, nel decreto sicurezza del sistema SPRAR appunto col CAS, ovvero i centri di accoglienza straordinari, perché proprio per loro struttura, oltre alla perdita di posti di lavoro, visto che appunto negli SPRAR il numero di migranti per operatore è minore, ma forse ci sarebbe anche una perdita delle figure di lavoro, diciamo, più qualificanti, quelle che richiedono più esperienza, una professionalità proprio nel settore dell'accoglienza? Ma è chiaro, perché questi centri straordinari, che dovevano appunto essere straordinari, invece vogliono farli diventare normali, sono poi che cosa? Alla fine dei grandi raccoglitori, dei grandi posti dove tante persone, dove il tipo di professionalità che viene richiesta è quella della sicurezza, no? Per cui avremo più guardie armate e sicuramente meno interventi di tipo sociale, meno interventi di tipo psicologico, meno interventi di ogni genere che sia in realtà che punti all'integrazione. Noi siamo assolutamente contrari a queste formule di raduno di persone, le conosciamo, già cominciano in Libia, e noi pensiamo di usare questa metodologia come il metodo migliore per far funzionare un sistema nel nostro paese. È una scelta comunque chiara e precisa, non è un caso che si voglia, diciamo in termini generali, cancellare gli SPRAR e sostituirli con dei grandi centri straordinari per l'accoglienza o, come si dice adesso, addirittura per l'espulsione, no? Per cui sono scelte politiche e ideologiche precise che vanno contrastate come tali, senza contare il dramma poi di tutti i migranti, tutte le persone che ci si trovano dentro, che è, diciamo, un problema incommensurabile, che certamente è anche maggiore di tutto il problema occupazionale che pure noi segnaliamo, ma insomma si aggiunge problema a problema, si aggiunge disperazione a disperazione. Certo non è questa la soluzione. E tra l'altro, insomma, proprio a proposito di questioni politiche, perché l'altro grande taglio previsto dal decreto sicurezza è proprio quello di quei famosi 35 euro che Salvini ha sbandierato a lungo, e insomma qualcuno ci provava a dirlo che quei soldi lì non erano bustarelle distribuite ai migranti, ma erano soldi investiti nell'accoglienza e quindi anche nella creazione di posti di lavoro. È naturale quello che dici, è naturale, cioè 35 euro, diciamo, diventa un simbolo che serve semplicemente ad alimentare lo spirito peggiore, gli spiriti peggiori che stanno nascendo in questi tempi. Qui il problema non riguarda la quantità di soldi, anzi diminuendo la quantità giornaliera diminuiscono le possibilità possibilità di fornire servizi adeguati. Non è che si può immaginare che è una sorta di denaro che va in tasca al migrante, no, questo è. Ma sono proprio i grandi centri di accoglienza quelli che hanno portato dietro di loro tutta la corruzione e il sistema anche di tipo, diciamo, mafioso che si è conosciuto anche a Roma, con tutte le connessioni peggiori. Certamente non riguardano i piccoli sprar, è anche esattamente l'opposto, cioè si sta cercando di consegnare questi grandi centri alla criminalità organizzata, che in questo paese la fa da padrone quando ci sono grandi appalti dove si può assolutamente trovare a, diciamo, a lucrare con facilità, e lì non sono né 35 né 25 euro che interessano, no? Sono i grandi appalti generali. Questo per dire che fa parte di una politica di simbolo che serve a stimolare la paura nelle persone, e questo è veramente drammatico. Non ho altri termini, perché l'indignazione è superiore a qualunque forma di ragionamento che uno può portare. Credo che dobbiamo dire questo con forza, e questo che noi vogliamo dire con forza: non si può stare zitti, anche se fosse la stragrande maggioranza dei cittadini che pensasse che queste sono le soluzioni, certamente non possiamo stare in silenzio.